Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Gentile direttore, negli ultimi giorni l'inverno ha fatto ancora sentire i suoi effetti. In molte località è caduta tanta neve quanta non se ne vedeva da anni e anche le temperature sono scese a livelli record. Eppure si continua a parlare di effetto serra, di sconvolgimenti climatici, della necessità di drastiche politiche ambientali. Mi viene il sospetto che dietro queste pressioni ci siano potenti lobby industriali decise a far crescere gli investimenti nei nuovi settori di quella che viene chiamata green economy. Lei che cosa ne pensa? Giovanni. Caro Giovanni, se volessi essere malizioso potrei pensare che dietro la sua posizione ci sia la lobby dei produttori di petrolio che vuole difendere i propri interessi oppure quella dell'auto che vuole mantenere gli attuali modelli di produzione. Ma è meglio non essere maliziosi e allora riflettere soprattutto su un fatto. Proprio i fenomeni che si sono verificati quest'inverno dimostrano che il clima sta cambiando. E non è comunque una nevicata in più che può modificare una tendenza ormai consolidata. Dobbiamo renderci conto che negli ultimi decenni c'è stato un progressivo aumento delle temperature, ma oltre a questo c'è un inquinamento ambientale che cresce e che va combattuto se abbiamo un interesse per la salute delle persone. Lasciamo stare allora le lobby industriali o petrolifere. Certamente ci sono e spingono anche a creare consenso verso talune politiche ambientali. Il nostro interesse dovrebbe farci guardare al nostro futuro e soprattutto a quello dei nostri figli. Dobbiamo cercare di lasciare loro un pianeta il più possibile simile a quello che ci hanno lasciato i nostri padri. Caro direttore, da molti economisti, banchieri e politici si sente dire che il peggio della crisi ormai è passato. Intanto però c'è chi, per mancanza di lavoro o per la paura di perderlo, si è suicidato, soprattutto qui, nell'ex Florida Nord-Est. Gli ammortizzatori sociali non sono eterni e purtroppo i problemi occupazionali non si risolvono con le facili parole. Lo testimoniano le migliaia di persone in cassa integrazione e quelle altre migliaia che a breve rischiano di esserlo o di perdere il lavoro. Caro direttore, se si perdono alcuni dei motivi fondanti della nostra vita, come anche il lavoro, avviliti e smarriti, si è poi portati a pensare a tutto, non solo all'alcol, alle droghe o alle rapine, ma anche, come se si risolvesse qualcosa, al suicidio. Capisco, perché l'ho vissuto da mediatore di bestiame ai tempi di Mucca Pazza, che non sia facile trovare o inventare nuovi lavori. Ma negli ultimi decenni l'iniquità tra le varie categorie di lavoratori, anche all'interno delle stesse, ma soprattutto tra il pubblico e il privato, ha creato troppa disuguaglianza sociale, creando poi rabbia, disagi, difficoltà e nuovi poveri. Quali possono essere le vie di uscita per diminuire la forbice sociale e ristabilire un clima più sereno anche per chi in questo momento critico vive una situazione di depressione e disagio? In questo senso la storia e il nostro passato ci possono aiutare? Decimo. Scrivo a proposito delle polemiche che ha suscitato la presenza di un distributore di preservativi presso un liceo di Roma. Da quanto detto si è capito che il distributore rientra in un progetto più ampio, condivisibile sotto diversi punti. È che l'ipocrisia, anche della stampa pur di fare notizia, è di soffermarsi sulla punta dell'iceberg e di non andare a fondo nello studio dei problemi. Da medico di medicina generale so quante volte mi tocchi fare counseling sull'attività sessuale a seguito di richieste di pillole del giorno dopo e di prescrizione di pillole anticoncezionali a giovani donne. L'educazione alla sessualità passa attraverso tutti gli aspetti della vicenda, compreso quello di prevenire malattie sessualmente trasmesse e gravidanze indesiderate connesse ad attività che fanno comunque parte della vita di tutti i giorni dei giovani. Andrea. Ho visto su YouTube lo scontro tra Berlusconi e il finto giornalista Rocco Carlomagno. Sono pienamente d'accordo con l'atteggiamento di Berlusconi. Vorrei vedere la stessa scena in America tra Obama e un giornalista dell'opposizione al governo. L'avrebbe già fermato alla porta. Da noi, per fortuna, c'è la possibilità di esprimersi, purché lo si faccia con educazione. Flavio. Berlusconi ha dato una lezione ai giornalisti che si comportano con arroganza, presunzione e supponenza. Ha fatto bene a riprendere quel reporter e spero che replichi con altri giornalisti dalle stesse caratteristiche, una categoria purtroppo assai diffusa. Giuseppe. Forza Carlo Magno! Su Facebook il gruppo Rocco Carlomagno sta crescendo in modo incredibile. Dal Salento con affetto, Antonio. Questo Carlo Magno è un generatore di ansia. Vi faccio i miei complimenti per essere riusciti a tenergli testa nella trasmissione in cui lui era ospite. Quelli come lui, vedi Grillo e simili, sono personaggi esagitati che lasciano il tempo che trovano. Senza entrare nel merito degli argomenti, alla fine, nella pratica, sono più antidemocratici quelli come lui di coloro che accusano di fascismo. Perché o la pensi esattamente come lui o sei contro di lui. Guido. Ho visto il presidente del Consiglio in conferenza stampa. Ho visto il video che mostrava la consegna dei documenti delle liste del PDL. Pare ci sia un referto dei carabinieri molto esplicativo. Sono più convinto dell'inizio. La paura non si è fugata. Sta per succedere qualcosa di anomalo. Ma il miglior modo per risolvere il problema, secondo me, sarebbe stato il procrastinare le elezioni con l'accordo di tutti. Questo non avrebbe creato precedenti né polemiche né casusbelli. Ma comincio ad avere l'impressione che questi non sappiano neanche cosa sia il transatlantico. Figuriamoci la sua politica. Giovanni. Visto che le liste irregolari in qualche modo vengono riammesse, perché non si fa pagare una pena pecuniaria? Ovvero, per ogni voto che queste liste otterranno, non gli si dà il rimborso elettorale. Almeno lo Stato risparmia e la prossima volta i partiti ci pensano due volte prima a chi far presentare le liste. Luigi da Pisa. Ma non è assurdo che un partito già presente in Parlamento debba presentarsi come se fosse sconosciuto e che questa formalità burocratica possa in sostanza privare del voto centinaia di migliaia di cittadini? Gli iracheni votano in massa nonostante le bombe e da noi si accetta che una parte importante possa essere stromessa per un mal di pancia o un panino al salame. Che pena vedere politici e giornalisti rimestare nella fanghiglia quando tutti, opposizione compresa, dovrebbero invece ribellarsi a questi lacci e laccioli e confermare e garantire la partecipazione di tutti i contendenti elettorali, preservando il diritto degli elettori a votare liberamente e comunque e al di sopra di qualsiasi baruffa provocata da tronfi piccoli burocrati. Paolo. Scusarsi accettando di avere sbagliato, riconoscendo l'errore, viene interpretato come diminuitio capitis, cioè caduta di immagine, sottomissione. Bersani lo disse con chiarezza. Berlusconi chieda scusa, accetti il suo errore, la smetta di accusare gli altri e vedremo quello che si può fare. Ma per il Cavaliere sono sempre gli altri che sbagliano. Sbaglia la magistratura, sbaglia la Consulta, sbaglia il Presidente della Repubblica, sbagliano gli elettori che non lo votano, sbagliano i giornalisti che lo criticano diventando farabutti. Questa pretesa di infallibilità lo assimila a quei pontefici che ne hanno fatto un dogma per non correre il rischio di essere smentiti. All'infallibilità viene accoppiato il dovere dell'obbedienza. Nel caso del Cavaliere, almeno finora, al dovere di obbedienza ricadono solo pochi personaggi che squalificherebbero qualunque congrega con la loro sola presenza. Rosario. Mi rendo conto che non sia molto facile cercare di spiegare cose inspiegabili, ma da semplice uomo della strada vorrei solo che il PDL facesse capire cos'è successo esattamente e ammettesse le proprie colpe. Vorrei che la sinistra accettasse le liste PDL, capendo che un'elezione monca non avrebbe senso e penalizzerebbe quelle persone che hanno ancora lo stomaco per andare a votare. Ma mi rendo conto che in questo paese tutto questo sarebbe impossibile. In occasioni come questa e in tante altre, i politici dimostrano che i cittadini sono soltanto mucche da voto e servono solo ed esclusivamente al voto. E il numero e la assiduità degli emendamenti che sono stati portati sul legittimo impedimento è la conferma di quanto sopra. Alessandro. Non so se ridere o piangere, ma propendo sempre per il sorriso, o meglio, un ghigno. Siamo o no in Italia? Quello che succede ogni giorno non dovrebbe stupire la coscienza italica. Le liste delle elezioni regionali in Lazio ne sono un chiaro esempio e la successiva modifica delle regole ne è un'ulteriore e lampante dimostrazione di che pasta siamo fatti. Io sono veneto, quindi le elezioni regionali del Lazio non mi toccano affatto. Sono per un voto regionalista, che dovrebbe essere molto più importante delle elezioni nazionali. Io vivo nella mia regione e da questo dipendo per molte faccende. Se vogliamo poi discutere del pasticcio, mi sembra che sia chiaro a tutti, e non vedo perché se ne debba discutere per una settimana o addirittura un mese, sono onestamente stanco. Noi italiani non andiamo mai avanti, torniamo sempre indietro, peggio dei gamberi. Sono per una politica di idee e non di partiti. Flavio. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.